Beh, già va bene, dai, a meno che non si avesse troppo dalle palle, quello lì. Avanti, fra. E allora, molto, molto cavo ci vuole, Ale. Il cavo sì. Allora, sono una 50, 50-60 metri di cavo ci sono. 58. Una bella pizza, che cavo vuoi mettere? Roba buona? 58 normale ci metto, non è che ci voglia altro, mi basta un 104, non è che devi portare con le viale, cosa del genere. Ci metto un 58 normale, se la via in culo. Che c'è un bel di perdita però, capito? No, non per il vate che gli devi mettere, che c'è molta perdita, con 60 metri di cavo, cavolo. Se gli dai 5-6 vate, alla fine non ci arriva nulla in antenna. Io c'ho il lineale, non ti preoccupare, io ho dato io il lineale. C'è il lineale da 100 watt, cosa vuoi di più? Un lucano. Bello, con 100 watt, ma qualcosa gli arriva. E vabbè, dai. Tu invece che capo c'hai? 213? Oh, Anto? No, l'H155. Ma ah, anche io l'ho comprato, ma non l'ho mai usato. Ne ho una bobina pronta per, si sa mai, metto l'antenna sul tetto. Però, fermo lì. Guarda, 6 metri di cavo, tutto in potenza. In nuda, vabbè, io adesso qua ne ho... Sa, per... dai 3 ai 5 metri, dai, l'apparato ce l'ho dentro la finestra, l'antenna è fuori dalla finestra e c'è quel vecchio RG, l'RG8, quello grosso. Cappa, pensa tu, mamma mia, quanto è, così vicino non oserei neanche pensare a attaccare l'amplificatore, no? Cappa. Perché? Ma sembra che c'è un fumo, o c'è un fumo, o c'è un edda. Un fumo. Non credo che mi si fuma a me, non ti preoccupare. È un bel forte. Tranquillo che se vieni sotto casa, se ti accendo una cosa, non capisci più niente. Da dove? La casa tua? Se ti vieni sotto casa, è la carica di me, quindi. Vabbè, sì, vabbè. Vabbè, ah, così, no, a posto, non è che lo faccio questo locale. Sta giusto che in Sicilia gioca, arrivi a fondo scala, sta lì. Vabbè, anch'io una volta arrivavo a fondo scala in tutti i posti. Nel 2002 la vecchia. Poi ho preso e... la scelta, ho mandato tutto, segnale quello che c'era, ma la guerra era finita con quello di Alghero, eccetera eccetera, facevamo il muro di Berlino con Claudio, oramai cosa è stato il segnale, non è stato più niente, non c'è più il tanto, se c'era bene, il problema di guerriglia, allora sì, prendo un attrezzo immediatamente, tu lo sai, ce l'ho il segnale. C'è quello da 600, a parte l'altro, vabbè, quello che volevo benissimo. Devo solo prenderlo e restituirglielo a Valvole, che quello è suo. Però io ho avuto di roba a Puglia e di divertirmi. Quattro secondi. Avanti, avanti. E aspetta, sto scrivendo anche io un messaggio. Ah, così è. Vabbè, ogni tanto arriva un messaggio su WhatsApp, quindi bisogna dividere il cervello in due, una parte al baracchino, una parte al telefono. Una volta era così, una parte un canale, una parte un altro. Scappa. Ante. Allora che un po' che di tracco, quello abbiamo risuscitato là, appena appena. Allora, io pure sono gribato oggi, oggi dovevo riposare, ho lavorato ieri, domenica, invece mi sto facendo in campagna, mi ho tagliato tutta la siepe e poi ci voleva più a togliere la roba, tutta la roba che mi è uscita, sono stato 3 ore trasportando rami. Ah, non hai compreso che il bambino va freddo qua. Ah, fra poco dobbiamo andare un po' caretto, va. No, il mio è già bello caldo. Ho intanto l'accendo per farlo scaldare, come dici tu. Se no si ribilla la Romandia. Non Antonello, Franco. Ma tu la fai alla ferrovia, c'è un treno. Non ho capito. Tu cosa lavori nel treno? No, sempre in settore ferroviario, però là. Cosa sei capo treno, quasi? No, non sui treni, altre mansioni, dai. Ah, cappa. Lui conosce gente? No, così siccome ci ho viaggiato parecchio in treno. Ma con questi nuovi? Ehi, nuovi, vecchi. Anzi, ma che tu fate un casino, fate? Chi do vecchio, mamma mia, sono andato a Urbia. Poi all'ultimo sono andato con l'uomo, un po' che è più silenzioso. Vabbè. Cosa devo dire? No, adesso che abbiamo i nuovi, sono svizzeri. Anche in Italia non venire l'azienda che ripartia. Deve essere che non venire. Purtroppo in base agli appalti, capito? Dove si mangia di più? Cioè, invece dalla un'azienda italiana, da un'azienda svizzera. E poi adesso ci sono già qualche anno, iniziano già i primi problemi. Ma che tipo di lunghi era, una bomba era? Ehi, come si dice, macchinario suoni, ogni tanto si guastano, va. Capo, avanti, pompo. Aspetta, faccio il passaggio. Pompone non c'è più. No, ragazzi, sono già. Mi ha fatto bianco un lazzo qui, cazzo. Era passa, cazzo, come niente. E mi ha baciato la fianco. Pensavo che fosse cazzo un corno, cazzo. Un animale. Stai parlando da troppo lontano, io ormai non ti comprendo. Non ti batti. Hola, chico! Andai, Nisi? Kappa kappa, buona vedere! Aspetta che ti attenuo, a vedere quanto scendi dopo quando sganci. Il palazzo ti porto a 9, metti la portante. Oh, è 3 prova, guarda a vedere un po'. Adesso sei 9, prova a sganciare. Guarda a vedere. Sei sceso a 3, da 3 a 9, minchia. Ti lasci rire già. Cappa. A dove, come sto arrivando lì su? 25 passato, quasi 28. Cappa cappa, quasi a fondo scala, vero? Eia. Pompa, è ballato. Dai che lei ne ringrazia. Facciamo un po' di passaggi e poi lo spengo, dai. Dai che sto salendo. Canti so. Un pochino, vai. Tu ne hai attenuatore, Anto? Cappa, dovrebbe esserci. Prova se riesci a abbassarmi anche a me, a 9, poi sgancio, vedi quanto scendo. Guarda se lo trovi l'attenuatore. Prova! Ora, 1, 2, 3, prova. Mi hai abbassato? Cappa, ti ho attenuato del tutto. No, non è tutto, a quanto mi hai portato? A 9? No. E a quanto? A 3, cioè a 1, Non riesci a... Facciamo perché se sgancio allora arrivo a 0. Ma se prova un passaggio attenuato. Devi provare a portarmi... Non so, io lo faccio a 9, lo metto dove voglio io, capito, Lago? Ecco, a 9, sì. Adesso, dopo sgancio, aspetta, Vedi un po' quanto è sceso. Da 4 a 9. Da 4 a 9. Cappa. E quindi anche questo è già schirriggia, dai. Tu invece mi sembra che hai detto da 3 a 9 tu passi così. Qualcosina in più. Adesso ben punto, a buon punto, Ma io, poi a gare, io. Cappa, a me è aumentato adesso. Quanto? 1, 2, 3, prova, prova. 30, altrettanto. Un po', io molto sono sceso quando ho sganciato, Antone. Ah, arriva al 30 qua. Al 30 proprio arriva. Cosa rida? Perché compete più di prima? Aspetta che lo chiamava bene. Poi gli arriva la moglie. Altro che cosa? Per scusa di fare le cose. Se braccio di magliare. A confronto tra me e Antonello, che differenza fa? Tra me e Franco, che differenza c'è? Lo faccio con 5 euro. Vai, buon carotto! A voglia. Cosa Antonello? Che già lo passa a Natalino, adesso. A tutti passo, Natalino, a tutti vi passo. Ehi, a me nei confronti di Franco non mi passi. Ma cosa? Vai, fini la nota lì. Io c'ho 5 euro. No. Non passi Antonio, è Natalino che è vicino. Ma tanto meno non c'è storia, no. Cazzo. Fammi mettere la meno antenna sul tetto. Antonello arrivo 9:30. No, io 9:30 arrivo solo se uno si mette davanti a me lì. Gappa, hai giocato con Antonio Natalino, ho detto che hai detto uno più grosso. Ah, il grosso lo mette. Antonea, lo passo Antonio. Vai, finirà. Antonea. Attenzione, attenzione, Antonio il bumbo che può chiamare da capo. Ha aumentato di segnale ora. Allora mia, adesso Natalina arriva a 9:20, attenuato, e Antonio è 9. Infatti Rugonto, a Rubone ruba subito da Antonello. E Antonio ve la fai, no? Un pugno. Gappa. Aspetta un attimo che mi sta chiamando Sara, dai. Pupù, chi è il più forte da te? Qua sei tu, io lo sai che tu, così sono, scusa. Ha guardato bene là il segnale, Antonio. Sì, è toccato lui, si passa davvero. La verità che passa, perché il cazzo è più forte, non so cosa sia pompato, ma sta pompando. Già lo so, io sono liscio, non c'è grazie che ci allumino. Ma comunque è così, non si preoccupare, non è che si niente di tutto, la verità è. Se poter compare, come dire, lo sai che c'è tutto, compare non è che si perché tu fare un capo per fare un altro e c'è ancora la notte. Tanto lei ha informato ieri da Tonino per quella storia. Non mi ha di quelle basette, neanche io. Di chiamate la vedi. Non mi ha neanche una di quelle basette così. Sentite il GW sotto. Per di bella. È Coccuomane Luca. Io lo so che è Coccuomane. Guarda, ti passo anche da Luca, ti passo, Natalino. Vai, cosa abbassi da Luca? Tu scusato. Coccuomane. Provate io. Capai. Ma rubasso a Natalino. Senta Natalino, rubasso Luca. Ma tu sei più vicino, ce l'hai a tiro, ce l'hai. Io sono un po' più spostato. Che già lo sai. Ma Santa Maria di Pisa non ve la fai, no? Cosa no? Si sono in mezzo. E forse di basso. Pizzina. Non c'entra niente a bere i fatti. Se io sono in mezzo, passo prima io. È normale perché lo vedi. Però la Santa Maria di Pisa passo io di brutto pure. Lì al monte è caro grido via. Adesso vediamo quando entra qualcuno in Santa Maria di Pisa, facciamo la prova. No, in realtà non ce la fai, no? voi, perché sono spostato, sono. E adesso vediamo, quando entra qualcuno che è da quelle parti facciamo la prova. E non abbiamo gli stessi vatti, prova liscio e liscio a vedere. Calma, ti accontento subito, dai. Adesso proviamo la bombona, quanti vatti c'hai? Io pochi, posso uscire anche un 2 watt e mezzo. Avanti lo posso vedere. Questi sono 2 watt e mezzo. Ecco. Io abbasso un pochino. Ecco qua. Ecco. Un po', chi è che arriva più forte con pochi watt? Anche passare da sera, uno sopra l'altro. Uno, due, tre. Forza, parlate uno sopra l'altro. Attenzione, Pomponio, Pomponio, chi sei? Natalia, Natalia, che passa, No, un po' passa Natalino. Anche qua passa Natalino. Qua passa Antonio Percorso, facendo da fare. Antonio Bobo lo passa qua. Sto uscendo con 2 watt e mezzo, Antonio. Catalabru, vami. Qualche giorno lo facciamo, cazzo, quando c'è qualcuno che vede qua. Perché magari non ci crede, invece io sono veramente con 2 watt e mezzo. Guarda che adesso io ho passato il watt. Ci sono 2-3 watt, non di più. Se vuoi c'è lo strumento e te lo dimostro. Ma abbasso ancora, abbasso, guarda. Guarda. Adesso sono giù di watt proprio. Magari non abbassare, che se no magari ti passa. Adesso sto uscendo proprio basso di potenza. È logico, io sono più favorevole. Verso Antonello sì. Ma questi gli altri sono dalla parte mia, io sono in mezzo, per quello che passo, capitolai. È perché io sono in mezzo. È logico, da Luca passo io, da Franco passo io. Con Franco siamo a un tiro di schioppo. È bello che ti passa, sai cosa ti passa anche lì? Con l'apparato di coso lì. Per lavorare bene quello che c'è vicino a casa tua. Hai capito? Mi chiedo se tu un canale. Il discorso è quello. 24 uscita quasi, con l'apparato lì, liscio. Figurati tu. Non ti sta passando con un apparato 3009, 4005, quello che è. Un apparato che è modello vecchio, riparato, sistemato e cose del genere. Sta usando quello, sta usando. Fatto dire da Antonio Bombo lì, perché io lo sono bugiato. Oh, è questo qua, quello lì. C'è i batti regolabili, cioè adesso li ho scesi tutti, sto uscendo con poca potenza. Anche il mio c'è il vatto regolabile, e questo è 2 watt e mezzo sta uscendo adesso, c'è il vatto, metterò qua. Ma io a meno di 4 non posso scendere, 4 o 5. No, questo sì, 2 watt e mezzo. Poi in aumento, logicamente aumenta un bel, però non è che va già dei vatti di gran guedo attacca, giustamente. Sara avete salutare a Concetta. Non c'è Concetta, comunque quando sale già glielo dico. Salutami a Sara da parte mia. Ti saluta. Campa. Avanti, Fra. E Luca è andato via, è Luca. No, sono qua che sto messaggiando con la 25 un attimino perché ci hanno invitato e niente, per vedere cosa vuole fare. E cappa. Sono un po' che non entravo, io qualche volta dal ghetto sono entrato, ma non arrivo bene. Hola. Mara, mara. Cosa c'è? Ogni tanto fa le bizze, fa i capricci, fa. Comunque adesso dovrebbe andare bene, dai. Ora, ciao, va bene. Ah, quindi eri tu. Pensavo fosse un altro che stava entrando e dove stavo uscendo male. sono accorto già che ogni tanto dà le bizze, non capisco perché. Ma è l'apparato? L'apparecchio? No, deve essere qualche cosa al microfono. Non lo so. Adesso sono tornato alla normalità, vai. Sono super bene adesso. C'è la pagata, segnale, è modesto e va bene. E via la grande, cosa vogliamo di più? Un lucano. Che appagappa. E già sta andando bene, sì. Benissimo Luca. Ottimo, ottimo per la truffa. Ci sente uno in GW, voi lo sentite? Sì, sì. Perché si mette in GW? Come sta girando con qualcuno? Sta rompendo le balle, è diverso. Ma deve essere anche un po' scarso, che è molto lento, non è veloce. Sta imparando, sta. Che la fa? Esci che c'è un attimino giù, mi piglio una pulla di leva e va giù sette. Io vado a guardare un po' di partita, dai, ragazzi. Buona serata, buon tutto, è stato un piacere. Ok, un abbraccio a tutti. Riprendi Luca. Ciao Fra, saluto, alla prossima, ciao ciao. E beh, tutti andati? Ma mai, diciamo, il ventilatore volta al comando. Hola, hola. C'è qualcuno qui? Ehi, in realtà lì c'è un attimino giù a pigliarmi leva. Ecco, ma che se mi sono tutti andati a bisogno io? Non pensano. Ma ci sei ancora, Antonio? Lì, sta a posto? Stai meglio? Eia, mi sono anche pesato oggi. Già ho recuperato, peso 56 adesso. Ma non male, dai. Quanto pesi 56 kg? Quanto pesi la tali 56 kg? Eia, si sono che arrivi da peso 52. Adesso li sto riprendendo, meno male. Inviso 80 e il burro quando si venne mi 80 se c'ho la 44 di pantaloni adesso, prima c'avevo la 50. Ma diciamo che per la tua fattura va quasi bene, mi anche e almeno 62 mi ha detto la dottoressa che deve arrivare. Eh sì, diciamo per la tua fattura va quasi bene, va e via. Cioè, vabbè, Luca è più alto, quindi ci siamo già nella media. Invece più uno che Luca, ragazzi. Vabbè, io il peso mio è quello. Io mangio quanto un porco e non ingrasso, sempre quel peso lì peso. E a chi ci piace? Cappa. Vabbè, meglio così, dai. Che pure lui, grazie, da buono si vede più. Tanto occhio al perizoma. Buonasera, sera Concetta. Saluti da Concetta a Sara, mi. Tanto. Va bene, cari. Cappa, saluta. Cappa, andiamo ora che mi passano che c'è gurru che si invita un biccione, cosa è? Mi devo buscare un coso, me lo direi raffico. Non è uno, sono due. Eia, Fernandi. Lo dirà raffico i bisigoni. Sì. Non sono appena tu. No. E come una fusilata a me? Allora tiragli una fusilata. Magari non è un colpo. Ma com'è che non fa radiale che sta cosa? Se non mi viene mugiato tutto. Isso sì, Il vantaggio c'è, Lo so. Lo so. Quando c'hai radiali ti si buono in un'altra radiale e ti sbroncano. Ma a Cibosa è nata la doglia. La mia è sempre intatta, l'ho guardata l'altro giorno l'antenna ed è intatta, anche quella che c'è in campagna, c'è radiali tranquilli. Che occasione sta tirando sopra, se lo dai, mi fa la matova 5. Sì, cazzo, come si fa? È troppo bizzarro. Stai esce dalla mappa, Denivara. Sì, infatti. Io adesso è il momento di... Ho mettere i piedi. No, che se rompi il tetto te lo fanno pagare qua. Non va bene. Se avessi avuto uno di quei camioncini che c'hanno il cestello, ma così va bene attaccarlo alla macchina. Guarda, non mi è pesante, aspetta un attimo, arrivo subito. Capa, però è un peccato il Samantha, vai, è un peccato veramente. E già lo so come mi metto in forza, me la smonto, me la pulisco e me la metto in casa mia lì. Poi al limite non lo so se la piatto. Benissimo, c'è gente che c'era un sacco di anni. Già lo so, io quando me ne sono andato l'avevo usata 2 mesi e se ne sta ancora ridendo sopra il palco. Dammi il controllo, per favore, come sto uscendo? Barrado, cosa hai fatto? Sto pompando con le lineare. Dacci bella, c'è 9.30 Radio 5. Sto quello transisto, il 5.5, cioè il 5.5, bevuto 2001, l'MK, cioè, l'MK2 per esattezza. Va bene, funziona, sì. Alleluia che va bene, ma la ventola c'ha? Sì, c'è la ventola, si sente, sì. Beh signori, io vi saluto, che adesso è venuta l'ora dei pavesini, ci sentiamo alle prossime. E a te la sai come sto uscendo? Dammi il controllo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fondo schiena, sì, qua. Ok, vabbè, volevo sapere se stavo uscendo bene, allora. Quella transisto naturalmente, non quella valvola. Questo transisto funziona bene, a voglia, basta avanza. Ma tutta la potenza stai spingendo? Potenza 6, a manetta so. Non sei a manetta? Ehi, a potenza 6. Ah, si vede, sì. Sei più di 9.30. Con quelli lì, con la valvola, quando c'era la differenza, di meno, sì. Ma è migliore, però. Con la valvola? No, migliore è questo, perché con la valvola io sentivo sempre il saturo. Ah, vabbè, ma il segnale comunque è più basso con la valvola o questa transistor che è meglio? Con la transistor migliore. Ah, ok, sono contento, allora. Ok, ce va bene. Capo, a me non si scioglie il sugavo. Quello che sto pensando infatti. Capo, caldo è o no? No, è tiepido, la verità. Ogni tanto fanno scaldare appena. Ah, sono stanco, aspetta, sennò mi brucia i bacini, mi brucia a un certo punto. Capo, è stanco, quanto è? Adesso lo sono liscio, visto vai? Già va bene così, se no ci vuole un capo migliore, ci vuole per tenere quello. Oltretutto che magari un po' lo stringe la cosa di banda, capito? Lo so, non ti preoccupare. Ho studiato tutto io per la bella questa lineare, hai capito? Quindi l'ho avuto e me lo sono tenuto. Perché ne pompa quasi 700 tondi, modificato io, quindi figurati tu. Questo è il cugino di quelli Mario Massel, lineare. 700 tondi. Sempre attaccato a Edo, che non lo gioco. Appunto. Ce lo so, avete io. Adesso devo procurare con il Mario Massa, se riesco a procurarlo uguale, gli cambio i finali e così almeno va bene, lo recuperiamo, se no pazienza, cosa ne possiamo fare? Io sempre avuto il sospetto che lui dà sempre di fatti quando modulava, perché me ne accorgevo. E sono modificato io, lo credo. Lo sai casa sale quando arrivava, 9:20 arrivava a me, ti giuro, col chemodo. Allora io pilotavo in pratica questo qui, col chemodo, con 4 watt, arrivava a 9:25 a casa sale, figurati tu, infatti io ho detto se stacchi, lineare, diretto. Stanotte ti porto via tutto e me lo porto a casa. Appeso infatti ho lasciato tutto com'era. Forte ci fa Mario. Lo so che ci fa forte Mario, lo so. Vabbè, hanno impallinato l'antenna, quindi ha lasciato appunto, cosa arriva? Pazienza. Quello l'abbiamo fatto perché sono bastardi. Quello l'abbiamo fatto non è perché sono dei bastardi eretti. Lo so. La passione di fronte a lui, guarda, è una cosa allucinante. Hanno messo fuoco anche la macchina addirittura per il baracchino, quindi figurati tu. Ma se lui si è fatto, grazie a Dio, è andata bene. Si è fatto rispettare, però quando c'è di fronte a lui l'hanno massacrato, hanno messo fuoco alla macchina, di tutto gli hanno fatto, la verità. Che non me l'avessi fatto a me, perché se mi avrebbero fatto una cosa del genere, ogni settimana gliene combinavo una. Ti male così faccio da te. Non è come vivere lì, sta tranquillo. A lui l'hanno impallinato le antenne, a Natale, a Capodanno, di tutto ci è passato. Avanti chi vuole entrare, buonasera. Sì, ti sentiamo, avanti, dimmi chi sei. Guarda, ti sento un bel basso, la verità. Ho capito che stai provando un apparato, però non ho capito che sì. Non ho capito. Ti chiami Mirko? È una cosa del genere, tanto non è. Infatti lo sento tutto strano, non so. Capo, da dove vedo l'amico? Attenzione amico, dove parti? A Centro Storico sei vicino al circolo o cosa? È impossibile che quanto non è, l'avrei sentito forte. Boh, non lo so la verità. Sono stato qua in zona, non abbiamo inteso voci, il primo a sentirlo l'ho stato io. Appunto. Capa, lo sai che io non ho problemi. E tanto meno io, figurati tu. Sento tutto anch'io. Capa, io dico la verità, Antone. Io con questa antenna mi trovo non bene, no, di più. E sono contento, visto Mario? Sei tranquillo a me. Ce l'ho già, quanto tempo ce l'ho già? Avevo messo la boomerang, prima la storm, poi la boomerang l'ho tenuta per poco e poi ho messo subito questa. Ho messo un'altra antenna e poi ho messo questa che è migliore. Dico la verità, ce l'ho già diversi mesi, ce l'ho e... Bene. Oh, già c'è bene. Comunque c'è una moto a tubo, 80 euro, l'ho visto ieri, se non mi ricordo male, su Facebook l'ha detta. La stanno vendendo, una moto va uno, cioè la moto a tubo più un apparato addirittura. Non mi ricordo che apparato sia, comunque sia, la stanno vendendo. Io è su basso. Mi basta quella sul coso dei motori, la sta vendendo lui. Sito su Facebook. No, l'antenna così pesante non è buono su buoni. Vabbè, meglio niente, già quel punto. Questa va bene, sento tutti. Una ricezione che molti non ce l'hanno, che hanno proprio la mantova, non ce l'hanno come me in alcuni punti. E non mi posso lamentare. Guardarsi con alcuni segnali io li sento bene. Ma io li sento a tutti, grazie a Dio, la verità. Però un attimino sta arrivando subito, 2 minuti. Vado a fare la pupù, sta arrivando subito. E altro. Allora. Sono diventato. E Antone? Ci sei, sì. Capo che ci sono, aspetta. Ho toccato questo. Allora. Io così sono contento, e ora? E che anni sono usato un viso roccio di coboro, te la mette? Un po' di anni, ma è un bel. Io ora è cambiato, era male. mio padre questa, era la sua, me l'ha data a me, è giubiata da subito. Ti ho fatto bene qua, me lo usci come si deve, fece veramente bene. Ma poi non si trovava qualcosa, mi sono detto da peso. Allora Fusaro me ne ha dato uno, di chi si... era già Muramulla, però si chiama in un altro modo. La basetta, va? Quella spirale. Vabbè, la basetta comunque sia, quello che è. La giovata, la giubata, 1-1, non la giù più toccata. Hai fatto bene, ora. Tu sei tranquillo. Atta, qua c'è scritto muore il re della Farinese, sarebbe piangere la scomparsa di Benito De Montis. Lo conoscevi? No, lo penso o no? Proprio Benito deve essere, questi che sono qua e facciamo la Farinese. Ti ha sentito storico? No, lo penso, non l'ho mai conosciuto io. La verità, io che ci conoscevo erano quelli delle parole cose vita di Emanuele, quindi io prendevo la pizza per dire la fame e basta, null'altro. Io già riconosco tutti, ho sempre girato. Quindi li conosci tutti là? Tutti li conosco. È meglio così, anche io conosco tutti la verità, non è che... mi stai inventando. In pratica sono stato lì 3-4 anni, una cosa del genere, sono storico, figurati. A modulare quello che è, e quindi a un certo punto li conoscevo tutti. Dopodiché sono cresciuto lì, cioè cresciuto, nel senso, abitavo lì, quindi... cosa vuoi di più? Un lucano, diceva quello. Capa, ti manca, vero? Mi manca parecchio, la verità mi manca un bel, quella zona. Meglio di questa c'era, cioè, almeno c'era più movimento, la verità. Mi manca personalmente per quello, perché la sera uscivi per dire verso le 6, 6 e mezzo, 7, andavo al circo, ti divertivi, poi c'era, vabbè, c'era quello che c'era, sai che c'era quello che fanno le prostitute, quello che è. Però uscivano, anche loro andavano al circo, si divertivano a giocare, quello che era, conoscevi tutte. Eravamo tutta una famiglia, più che altro. Lo so. Purtroppo è quello lì, cosa ci posso fare? Ogni tanto c'era una di quelle che faceva il cucciù. E appunto per quello. C'era quello che facevo il ciucucciù e quello che è, quello che è. Ui. Già bello il ciucucciù, là. Vabbè, quando capita, sì. A quel periodo c'era una bella libertà, quando a un certo punto, tutti i giorni, quanto ne volevi, c'erano i soldi, quello che è. Adesso invece è un casino, chi ci va a casa a fare una cosa del genere, che poi trovarsi magari preso e messo in galera, hai capito? E quindi a un certo punto è rimasto tutto un casino adesso, capito? Non puoi partire per dire in Spagna, non puoi partire in Inghilterra per quello là, e quindi in pratica si è rimasto in Italia e si è incasinato, il discorso è quello lì. Tu eri l'antennista loro, eri, mi ricordo, Antonio. E appunto per questo sto dicendo, so cosa vuol dire, capito? La mancanza delle... era tutto solidarietà di quello che vedevano loro per dire, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto non è così facile, è come io per dire, io e tu che andiamo per dire in Spagna che non vediamo un accidente di italiano, hai capito? Però è uguale, la stessa identica cosa sarebbe. Già lo so, Antone, ma è un'avventura, raga. Vabbè, ma allora quello che lo fanno per esperienza, capito? se è quello. Cata. Bei tempi, ah, bei tempi. Sono ben tempi, sono passati, non tornare mai più, dice. Però, chi lo sa, Già tornerà, non ti preoccupare, torna, non ti preoccupare. Adesso è passato un mese, due mesi, torneranno quei tempi che sarà il nuovo giro, hai capito? Cappagata, io ti saluto, mi ha fatto piacere, chiacchierata, ce lo risentiamo, dai, io vado a nanna, perché se così qui ce l'acco. D'accordo, che dai, ci andiamo domani, stammi bene, buonanotte, buon tutto, alle prossime. E a capa, ciao Antone, dai, ce lo sentiamo, ciao, domani. Ciao. C'è qualcuno su 10, tanto 10? Ci sono, guarda, ho capito, ti sento basso, dove ti trovi? A te sono una roba, adesso ho portati, guarda, ti sento mezzo a QRM, sei Santiago 2, radio quasi zero, proprio non riesco a capire. Tu mi ascolti bene? E che appena c'è un'antenna piccola. Mi dispiace, non riesco a copiarti bene. Vabbè, speriamo di sentirci in situazioni migliori, non riesco a capire quello che dici, ti sento qualche QRM, qualche passaggio, lo ascolto, però c'è un QRM troppo forte, non riesco a capire quello che dici. Non ho capito dove sei, in che zona di Sassari sei? Sta uscendo troppo basso, sì, mezzo a QRM, Santiago 5, la radio non ce ne hai, proprio tutto mezzo a QRM, sì. Mettiti un'antenna migliore, magari riusciamo a tirarti fuori, Basta, non dico a metterti davanti, ma mettiti un'antennina, anche una muba, anche qua così, magari riesci a farti sentire. Io qui ascolto tutto, però per essere a Sassari proprio sei zero tu. C'è un po' di segnale, ce l'hai 5, però purtroppo, ti ripeto, qua io c'ho QRM alto, sempre alto, e se insegniamo deve essere almeno 6 o 7 per arrivare a capire qualcosa. Tu mi ascolti bene comunque, sentiamo quanto era la tua parte. Allora adesso ti devo lasciare, ci sentiamo a proseguire, sparando in situazioni e in condizioni migliori. Ciao. Allo. Sì, ma dopo ci vado a mangiare. Allo.